Sì, siamo in diretta per la polizia. Perfetto. Hello. utilizzato, io non esisto, sono due, sono uno, Luca. Thank you. Thank you. che noi mettiamo adesso. Va bene, avanti, avanti. Thank you. Tornando all'ospedale.